L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben tornati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta. La Pasqua, da un punto di vista meteorologico, non è stata delle migliori, però insomma la stagione delle gite fuori porta, possiamo dire, è iniziata, passata la Pasqua, e con quella insomma inizierà anche la stagione dei viaggi, magari anche dei picnic. Ecco quindi che questa settimana vi offriamo due temi che sono stati recentemente affrontati in altrettanti convegni, che forniscono buoni elementi di riflessione e anche di osservazione per i nostri futuri viaggetti fuori città. Cominciamo dalle strade. Le stazioni di servizio, dove pure si vende il grande Satana, diciamo così, tra virgolette, che comunque per ora resta indispensabile per il nostro movimento in auto, ecco, le stazioni di servizio si stanno sempre più ammodernando e trasformando per ridurre consumi e impatto ambientale per tutto quel che riguarda il non-oil, almeno, quindi colonnine di servizio, autolavaggio, bar, ristoranti. In autostrada e nelle piccole stazioni cittadine si usano sempre di più i pannelli fotovoltaici, ad esempio, o l'illuminazione a LED. Ecco, il punto della situazione lo si è fatto a Torino, in un convegno, come dicevamo, sulla efficienza energetica. Coinvolti nel progetto il Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, la Regione Piemonte, l'Unione Petrolifera ed Archigia SRL. L'intervista a Marina Barbanti, responsabile dell'ufficio economico dell'Unione Petrolifera, è di Vincenzo Miglietta. Il tipo di lavoro, diciamo, che è stato fatto e che stiamo facendo è quello di andare a vedere le singole aziende stanno facendo, e quello di andare a vedere nella propria rete quali sono gli elementi di efficienza energetica che possono trovare. In realtà questi impianti non hanno degli altissimi consumi, però proprio perché non hanno degli altissimi consumi energetici è facile andare a intervenire per ridurli. Un primo intervento che viene fatto è quello sull'illuminazione, cioè magari la sostituzione dei sistemi attuali di illuminazione con i sistemi a LED consentono dei risparmi significativi con dei rientri in tempo ravvicinato. Si è calcolato che generalmente il tempo di rientro sono circa 3-4 anni, 3,6 anni d'anno, per cui uno, diciamo, fa questo tipo di investimento e riesce a risparmiare moltissimo sulla tutta la parte di illuminazione. Un secondo passaggio poi per quelli soprattutto che hanno un'attività non oil, che quindi possono avere un bar, possono avere un lavaggio, è di verificare la possibilità di mettere anche i pannelli fotovoltaici. In questo modo praticamente si riesce a assicurare che il fabbisogno energetico della stazione di servizio sia assicurato sostanzialmente per l'80-85% attraverso i pannelli. Poi logicamente la compagnia lo pubblicizza, questo tipo di attività, però non si vede, quindi anche da un punto di vista così urbanistico e architettonico non dà nessun tipo di problema, perché vengono messi proprio sul tetto delle pensiline, quindi non sono visibili facilmente. E sempre Vincenzo Miglietta ha intervistato Giacomo Orlanda, che è funzionario della Regione Piemonte, ma anche coordinatore del gruppo tecnico delle regioni italiane per la rete carburanti. Per quanto riguarda la Regione Piemonte, tendiamo alla razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, non attraverso la diminuzione del numero di impianti, come l'input di livello centrale, ma magari cercando di razionalizzare i costi di gestione anche con e soprattutto con interventi mirati al risparmio energetico e alla salvaguardia dell'ambiente. Il momento congiunturale non è dei più favorevoli in questo senso. Noi comunque in questo progetto si regge da solo sostanzialmente la sua sostenibilità economica e pertanto è vero che l'investimento non è marginale. Però nel giro di qualche anno l'investitore rientra di quanto investito. Casomai il problema deriva dalla contrattualità attuale tra gestori e compagnie petrolifere, per cui magari l'investimento lo fa la compagnia petrolifera, mentre chi beneficia del risparmio sulla bolletta è il gestore. Però si stanno ridiscutendo anche le forme contrattuali e magari si troverà una soluzione, senza contare comunque che quando si realizza un'economia poi magari fa beneficio di tutto il sistema, speriamo anche per i consumatori soprattutto. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo blu. Bene, ora torniamo alla nostra gita fuori porta. Dopo aver fatto il pieno in una stazione di servizio sostenibile, speriamo, pensiamo al picnic. In che piatti mangiamo? Di solito quelli usa e getta. Ma anche tra questi, quali scegliamo? Perché ormai le varietà sono tante. Una ricerca promossa da Promo, che è il gruppo produttori stoviglie monouso in plastica di Unionplast e condotta dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Trento, ha valutato l'impatto ambientale di ciascun tipo di stoviglie che potremmo utilizzare in questa eventuale gita. Su un podio ideale per minor impatto ambientale ci sono al primo posto i piatti riutilizzabili in porcellana, al secondo i piatti monouso in plastica, al terzo i piatti monouso compostabili in polpa di cellulosa e infine quelli in PLA, che è un biopolimero derivante dal mais, diverso però dal Mater B di cui abbiamo parlato in altre puntate. Come è stata condotta questa ricerca e una analisi del risultato nelle parole del professor Flavio De Florian dell'Università di Trento. Tenendo conto l'obiettivo finale di confrontare per quel che riguarda l'impatto ambientale diversi prodotti in questo ambito, fra i diversi approcci possibili noi abbiamo scelto quello che a nostro parere, ma non solo nostro, è quello più ampio, cioè che prende in considerazione gli effetti dell'utilizzo di questi materiali dalla loro produzione al loro smaltimento, al loro fine vita, considerando tutti gli impatti ambientali possibili. Questa metodologia, che appunto prende il nome di LCA, Life Cycle Assessment, è la metodologia diciamo più utilizzata in realtà a livello mondiale ed ha il vantaggio di essere una metodologia standardizzata, cioè segue delle regole definite da organizzazioni internazionali e quindi diciamo non dà possibilità di arbitrio nel momento in cui viene applicata, ma è precisa dal punto di vista numerico e molto dettagliata dal punto di vista procedurale. In questo modo riusciamo ad avere dei numeri che siano i più oggettivi e i più utili possibile. Come si spiegano i risultati che avete ottenuto, quindi la plastica prima del materiale compostabile? Il risultato ci dice semplicemente una cosa in termini generali molto semplice, cioè che i luoghi comuni spesso ci portano fuori strada. L'impatto ambientale di un materiale rispetto a un altro va valutato in termini oggettivi, da qui risulta che materiali che potevano sembrare a prioristicamente assolutamente poco compatibili con l'ambiente in realtà hanno dei punti di forza, soprattutto se il fine vita viene gestito nella maniera più idonea come processi di riciclo o comunque di termovalorizzazione. Altri materiali che hanno diciamo sicuramente un feeling ecologico come materiali compostabili o biodegradabili, non dobbiamo dimenticare che occupano territorio per esempio per la produzione delle materie prime che poi si utilizzano per la produzione di questi polimeri e che comunque sono anch'essi energivori, utilizzano energia durante i processi produttivi e quindi alla fine dipende da caso a caso. Ora detto tutto questo, se abbiamo la possibilità di farlo, quindi portiamoci le stoviglie da casa. Se non possiamo, controlliamo almeno quale sia la destinazione finale corretta da dare ai piatti monouso che portiamo al nostro picnic, ai piatti e ai bicchieri, quelli in plastica nella raccolta della plastica, quelli compostabili nel compostabile. È una nostra responsabilità questa. Le aziende, dal canto loro, devono prendersi le loro responsabilità. Marco Omboni è presidente di Promo, come dicevamo, il gruppo produttori stoviglie monouso in plastica. Noi crediamo che come produttori dobbiamo farci carico di quella che è la migliore gestione dei nostri prodotti e soprattutto del fatto che questi prodotti siano avviati al miglior fine vita possibile, perché proprio dalla ricerca si evidenzia come destinando questi prodotti al termine del loro uso al riciclo o alla termovalorizzazione, o meglio ancora un mix di entrambi, se ne possono ottenere risultati che sono estremamente positivi sia in termini di impatto ambientale sia in un futuro non molto lontano anche in termini meramente economici, quindi c'è una convergenza di interessi e di positività con delle ricadute crediamo anche un po' su tutti. Questo convegno vuole essere un po' un punto di raccolta di informazioni più possibile oggettive che diano un quadro a 360 gradi della realtà di questi prodotti, quindi un punto di raccolta di informazioni di cui ci auguriamo anche gli amministratori possano attingere laddove nel momento in cui ci sono da prendere delle decisioni che riguardano i nostri prodotti ma che riguardano anche la miglior gestione della ristorazione collettiva e soprattutto ad esempio della ristorazione scolastica dove oltre agli aspetti ambientali sono importantissimi anche aspetti di igiene e sicurezza su cui i nostri prodotti hanno sicuramente dei punti di forza. Quindi quello che noi auspichiamo è che ci sia anche un confronto, una raccolta di informazioni prima di prendere determinate decisioni. Fino ad oggi questo è successo raramente, in molti casi ci si è lasciati guidare un po' da sensazioni, un po' da delle vere e proprie, mi passi il termine, mode. In realtà noi ci confrontiamo spesso anche con rappresentanti, ad esempio, di associazioni ambientaliste, e vediamo che frequentemente anche da parte loro, dopo una prima ondata, diciamo così, molto emotiva, c'è un ripensare certe posizioni e c'è la comprensione, che per noi è un punto di arrivo fondamentale, che in realtà non ci sono prodotti buoni o cattivi e che tutto sommato c'è spazio per tutte le tipologie di prodotti, basta che sono usate al modo giusto e al momento giusto. Le stoviglie monouso in plastica sono una frazione, mi passi il termine, infinitesima di questo grande mondo del packaging, però ci rendiamo conto che i prodotti, questi prodotti hanno molta visibilità. Banalizzo, non vogliamo vendere di più, per noi il bicchiere di plastica che finisce sul prato è un bicchiere di troppo che è andato sul mercato, noi vogliamo che questi prodotti vengano usati come si deve e riposti dove si deve, perché diventino da problema opportunità. Ci fermiamo qui per questa puntata, vi ricordo per scriverci l'altropianeta@radio24.it. Buon viaggio e appuntamento alla prossima settimana.